America 24. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Non so se avete riconosciuto questi due suoni, questi due rumori. Sono due rumori chiaramente identificabili, ma molto diversi fra loro. Ecco, per sicurezza ve li faccio risentire. Allora, avete un secondo per rispondere fra voi e voi di che cosa si tratta, qual è il primo e qual è il secondo. Il primo è il rumore di una frenata improvvisa. Il secondo è quello di una sgommata, di una macchina in ripresa, veloce, rapida, boom, ingrana la marcia e via. Perché vi ho fatto sentire questi due audio? Ma perché mai, vi chiederete? Beh, perché oggi voglio parlarvi di questo straordinario, interessante, affascinante, complesso, difficile mercato dell'auto. Mercato dell'auto che, appunto, da un lato in frenata con gli scandali come quello che ha coinvolto la Volkswagen, per esempio, ma altre case automobilistiche americane che hanno dovuto ritirare modelli per fare delle modifiche, perché l'auto, diciamo, col motore a scoppio tradizionale forse sta entrando un po' in crisi, perché si sta parlando molto di auto elettrica, perché ci sono le auto che ormai si muovono da sole, quindi la vecchia auto è in frenata. E l'altro invece che appunto è quello della sgommata, di cui in implicitamente vi ho già parlato, cioè dell'auto come un nuovo complesso oggetto meccanico di altissimo contenuto tecnologico, appunto, che guidano da sole, che hanno delle strumentazioni futuristiche che vi consentiranno di essere seduto alla vostra macchina e lavorare al computer, come avere in sostanza un autista. Ecco, di questo si è molto parlato, ho voluto mettere insieme questi due aspetti perché noi tutti, credo la gran parte di coloro che in questo momento mi stanno ascoltando in diretta, sarete probabilmente in macchina e avrete probabilmente le stesse curiosità, sensazioni, critiche, eccitazioni davanti a questi due fenomeni contrapposti, quello un po' della frenata e quello della sgommata. Sentiamo intanto Chris Gerds, che è un professore di ingegneria meccanica alla Stanford University, esperto proprio di automobili. Our goal is to design a self-driving car that can handle emergency situations even better than the very best human drivers. And the first step in doing that is to make sure that they have phenomenal driving skills. Ecco qua, sentite che Gerds si porta addirittura più avanti di quello che noi potremmo immaginare dal punto di vista tecnologico, perché dice: le automobili in questi giorni stanno raggiungendo dei livelli biologici di complessità. Ma può chiedersi che intende, e lo spiega, perché dal lato ci sono gli aspetti positivi, per esempio ci sono i sistemi anticollisione che rilevano la presenza di ostacoli o di altri veicoli che si stanno avvicinando, vi sono poi mille altre funzioni, alcune delle quali sono ancora in fase di sperimentazione. Poi c'è l'Active City Stop, che è il nome commerciale del sistema di frenata automatica. Questo è stato sviluppato dalla Ford e vuole evitare, ridurre al minimo il rischio di incidenti a bassa velocità. Per cui questo freno automatico controlla costantemente la distanza dalla vettura che ci precede, fino a 7,6 metri, e attraverso un sensore a infrarossi che è posizionato nella parte alta del parabrezza, fino a una velocità di 15 km orari, è in grado di fermare completamente il veicolo evitando l'impatto, mentre fra i 15 e i 30 km orari riduce la velocità dell'urto. Ecco, su questo noi non potremmo fare nulla. Questi, dice Gerds, sono due aspetti positivi, e però c'è quello negativo, perché lo scandalo Volkswagen, come sapete, era legato all'alta tecnologia, al fatto cioè che un certo software era stato modificato, questo software doveva controllare le emissioni, era stato modificato per registrare delle emissioni a contenuto inquinante minore di quello che in realtà capitava. E dunque ecco che, e questo non è inutile che entro nel dettaglio perché lo scandalo lo conoscete meglio di me, ecco che si era in grado di aggirare queste regolamentazioni. Ecco qui vorrei aggiungere una piccola nota personale, perché molti di voi che hanno delle auto nuove, che hanno delle auto comprate negli ultimi anni, si saranno accorti che ci sono una gran quantità di gadget, di bottoni, di meccanismi di controllo che io personalmente, essendo così un po' tradizionalista, ancora non riesco bene a far funzionare. Cioè, come capita qualche volta anche per i comandi per il televisore, televisore. Una volta si schiacciava il canale, si accendeva il televisore e tutto funzionava meravigliosamente. Adesso ci vogliono due controlli, uno per il cavo, poi con l'altro bisogna schiacciare un bottone speciale. Insomma, c'è un elemento in questo sviluppo tecnologico che secondo me appesantisce invece di alleggerire, e credo che questa sia una sfida con cui il settore si dovrà confrontare, perché questi nuovi elementi tecnologici secondo me dovranno essere molto user friendly e non lo sono. Qual è un'altra novità, un paio di altre novità che derivano da questi sviluppi? Beh, gran parte delle case automobilistiche americane hanno annunciato proprio negli ultimi giorni che non installeranno più nei nuovi modelli il CD. Quindi tutto il blocco di CD, dove voi mettete il vostro compact disc per sentirvi le canzoni, le musiche, registrazioni, libri on demand, chi più ne ha più ne metta, non ci saranno più. Perché? Perché di nuovo con l'evoluzione della tecnologia molti di voi avranno tutto immagazzinato nei loro telefonini, nello smartphone, e basta agganciare lo smartphone a un piccolo output nella macchina per sentire direttamente dal vostro magazzino quello che volete, senza dover infilare e togliere i CD nell'impianto audio della macchina. La radio naturalmente resta, e i sistemi tradizionali, per esempio di comunicazione via telefonica, anche quelli resteranno. Ecco, parlando proprio di telefono, cioè delle auto che sono connesse, ci sono dei telefoni, c'è cioè un'antennina e ci si può collegare direttamente, supponiamo che qualcuno si perda, e si può collegare direttamente con un servizio che identifica la posizione satellitare dell'auto, dice ma tu ti trovi in questa posizione, adesso ti guido esattamente dove dovresti andare, oppure se qualcuno resta chiuso fuori dalla macchina sono in grado di attivare l'apertura dell'auto in remoto, quindi ci sono una serie di vantaggi, ma questo porta anche a delle altre sfide, agli altri problemi. Sentiamo l'audio di Charlie Miller e Chris Valasek, che sono stati quei due furbacchioni, grandi esperti di tecnologia, che hanno messo in difficoltà chi? Beh, Sergio Marchionne, che credo che sia l'uomo più difficile da mettere in difficoltà, quando hanno fatto un'operazione di hackeraggio dimostrativa, cioè volevano far vedere che erano molto bravi nel fare certe cose, un'operazione di hackeraggio dimostrativa su una Jeep. Sentiamoli. It hasn't been altered in any way. There are no devices attached to it. But like many thousands of Jeeps around the world, it can be remotely hacked over the internet through a cellular connection to its entertainment system. Ecco, Miller e Valasek, qui raccontano la loro storia, sono due ingegneri informatici e hanno dimostrato che con un controllo operativo relativamente semplice è stato possibile prendere la Jeep, proprio il modello Jeep, quindi della FCA, di Charlie Miller, una Jeep Cherokee per essere precisi, e con un computer a distanza manovrato da Valasek è riuscito a inserirsi nel sistema elettronico della Jeep e ha controllato a distanza la vettura, l'andamento della vettura, soltanto con un computer che era collegato ad internet. E dunque in questo video si vede come sono in grado di alzare e abbassare il volume dello stereo, frenare o accelerare, suonare il clacson, bloccare il conducente dentro la vettura, muovere lo sterzo, addirittura praticamente tutto. E dunque è una cosa alquanto spaventevole, perché evidentemente ci sono delle vulnerabilità. La loro dimostrazione tra l'altro ha avuto un impatto molto diretto, perché la FCA ha immediatamente annunciato che avrebbe richiamato molti di questi modelli per introdurre delle misure di sicurezza che impediranno l'hackeraggio, dunque la penetrazione del sistema di controllo. Dunque luci ed ombre che hanno anche un impatto sul settore finanziario. In che modo? Beh, Warren Buffett ha detto che certe innovazioni nel settore automobilistico saranno devastanti, saranno una rivoluzione negativa per certi settori, per alcuni che sono a lui cari in particolare, cioè quello assicurativo. Che succede? Che le assicurazioni incassano una gran quantità di premi sulle polizze e dopodiché restituiscono il premio se c'è un incidente, però c'è sempre un gap di tempo, e la tecnica dell'assicurazione è quella di giocare proprio nel lasso di tempo in cui il denaro dovrebbe essere sborsato ma non viene sborsato, viene investito, rende qualche cosa. Immaginate questo fatto per milioni e milioni di persone, ecco che i ritorni sono molto molto interessanti. Ma che succederà? Beh, con un'auto diciamo in evoluzione tipo la Google ci saranno molto meno incidenti, perché l'auto per esempio fa delle cose che l'essere umano non farebbe mai, si ferma sempre a uno stop, anche se vede che non c'è nessuno che viene da destra a sinistra, si ferma, non si distrae e dunque minimizza, e questo è comprovato da una serie serie di proiezioni statistiche minimizza la possibilità di incidente. E dunque, chi l'avrebbe mai detto, dall'evoluzione dell'auto c'è il rischio di una perdita anche per le compagnie di assicurazione. Da New York è tutto, Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.